da sindaco, quando Casa Pound festeggia e commemora i cecchini fascisti che nel giorno della liberazione, anziché venire alla manifestazione con tutto il comune, vanno per, infatti loro a commemorare i cecchini fascisti, io esprimo tutta la mia rabbia e la mia disapprovazione e spiego che questi non sono i valori della mia città. Dico anche che attenzione a dare a chi frequenta, a tutti quelli che frequentano i centri sociali, che siano di destra o di sinistra, le responsabilità penali che appartengono al singolo. Chiudere non dipende dalle amministrazioni comunali, io credo che dipende ovviamente dalle forze dell'ordine, si chiude quando ci sono dei reati. Allora, dal mio punto di vista oggi, io prendo atto che Casa Pound ha scritto una lettera significativa alla comunità senegalese, spero che ci sia una forte indagine su tutto ciò che è accaduto intorno al killer, ma non è che dicendo adesso chiudiamo un centro sociale che abbiamo risposto ai problemi.